Sport e motori con Massimo Di Scienza. Le 16:35 minuti e 40 secondi, buon pomeriggio, bentrovati a un nuovo appuntamento con la trasmissione che vi porta a bordo pista. A una manciata di minuti dalla fine dei Gran Premi, ogni domenica siamo qui per commentare e analizzare tutto ciò che è accaduto sui circuiti della Formula 1 e del motomondiale. Tutto questo in compagnia di Carlo Cavicchi, direttore di Quattro Ruote. Buona domenica, direttore. Buon pomeriggio a tutti. Ciao, ovviamente con te e con Carlo Vanzini, inviato di Sky Sport. Ciao Carlo. Ciao Max, ciao direttore. Ciao. Analizzeremo il Gran Premio appena terminato poco più di un'ora fa o quasi, all'Hungaroring, che ha visto, come raccontavamo già nel corso del nostro giornale radio delle 16, la vittoria di Mark Webber, l'australiano della Red Bull, al quarto successo della stagione, più di tutti gli altri concorrenti. Webber che ha preceduto sul traguardo il ferrarista Fernando Alonso, secondo, e poi l'altra Red Bull, quella di Sebastian Vettel. Tutto questo per chi ha visto la gara o comunque ne ha sentito il racconto. Per chi non l'avesse vista, adesso vi facciamo noi vedere in radio il film del Gran Premio, perché subito alla partenza, pronti via, grandissimo Alonso che brucia Webber, è secondo dietro Sebastian Vettel, il tedesco macina giri veloci, arriva addirittura a 10 secondi di vantaggio su Alonso fino al 16° giro, quando però arriva la safety car in pista per un detrito. Quasi tutti ai box per cambiare le gomme, soltanto Webber, e sembra una scelta coraggiosa e anche un po' folle, resta Webber in pista con le sue gomme della partenza, rimane in testa, allunga fino a guadagnare un margine necessario e sufficiente dopo una quarantina di giri per andare ai box, fare il cambio gomme e tornare a quel punto davanti ad Alonso e a Vettel. Vettel che nel frattempo era stato penalizzato con un drive-thru per una condotta scorretta in regime di safety car. 25° giro, intanto Hamilton, leader del mondiale, era uscito per guai tecnici alla sua McLaren. La situazione di fatto non cambiava fino al traguardo. Alonso riusciva a tenersi alle spalle Vettel. Sul finale, una vera e propria follia di Schumacher su Barrichello per difendere il decimo posto. Schumacher stringe verso il muretto l'ex compagno alla Ferrari, che però esce bene dalla morsa e si porta a casa un punto mondiale. Questa è la cronaca di quello che è accaduto all'Hungaroring, quindi la classifica mondiale che prende questa forma. Webber vola in testa, 161 punti, ma soltanto 4 in più dell'ex leader Hamilton, oggi fermo al palo, e quindi rimane a 157. Poi Vettel 151, Button 147, Alonso 141, quindi 20 punti in meno di Webber. Poi Massa, che è salito al sesto posto a quota 97. Classifica costruttori: Red Bull 312, McLaren 304, Ferrari 238. Gran premio non divertente e ricco di polemiche come quello della settimana scorsa, comunque molto interessante, con tanti temi da sviscerare con i nostri ospiti, ma anche con voi, che potete interagire via sms al 349 238 6666. Se avete voglia anche di chiamarci, siamo qui all'800 24 00 24. Le prime domande che mi vengono in mente, poi chiedo anche agli amici Cavicchi e Vanzini di, come dire, irrobustire la discussione. La prima domanda che viene in mente è questa: la Red Bull in questo momento è imbattibile? E poi la seconda, che si ricollega anche al ragionamento che abbiamo fatto la settimana scorsa e poi per tutti i giorni a seguire: ma fa bene la Red Bull a tenere aperto il duello in casa, o dovrebbe fare come la Ferrari e puntare soltanto o su Webber o su Vettel? E poi terzo e ultimo interrogativo: questa Ferrari che festeggia questo secondo posto, fa bene a farlo, invece dovrebbe, come dire, immaginare di limare la distanza che la separa al momento dalla Red Bull? Prima di entrare nel dibattito, ovviamente le voci dei protagonisti. Il direttore del Ferrari, Domenicali, subito dopo la gara. Io sono soddisfatto perché avevamo un obiettivo oggi, che era quello di accorciare la classifica, l'abbiamo portata a casa. Sono soddisfatto per questo, sono soddisfatto perché siamo arrivati secondi, siamo arrivati quarti, e quindi adesso abbiamo qualche giorno da lavorare ancora e poi un po' di ferie per ricaricare le batterie dopo delle giornate, devo dire, intense, ma questo fa parte della Formula 1. Siamo tutti lì, la cosa importante è non mollare la presa, stare calmi, il campionato è lungo, quindi, però sono contento per i nostri tifosi. Carlo Cavicchi, direttore di Quattro Ruote, cominciamo con te. Un'analisi del Gran Premio, proprio sottolineando lo strapotere della Red Bull e questa soddisfazione comunque evidente della Ferrari. Ma sì, la domanda che tu hai posto, se questa Red Bull è imbattibile, va posta dall'inizio dell'anno. È dall'inizio dell'anno che la Red Bull va più forte, però è battibile perché combinano sempre qualcosa che non va bene e si rimettono sempre in gioco gli avversari. Questo è un dato di fatto. Poi oggi la Red Bull aveva tutto per scappare via ed lo sta facendo in una maniera anche un po' troppo sfacciata. È evidente che in un mondo come la Formula 1, in cui tutti vanno a seguire ogni mossa di un altro, una superiorità di questo genere ha qualche cosa, io non dico, non mi posso permettere di dire di irregolare, certamente di molto furbo che gli altri non hanno, perché altrimenti si è molto livellati. Devo dire che la Ferrari ha fatto comunque un recupero straordinario, essere lì in mezzo a loro, anche se oggi obiettivamente se Vettel non fa quella stupidaggine che ha fatto dietro la safety car, oggi era un 1-2 certo per la Red Bull dopo la safety car, perché senza safety car non si supera e quindi sarebbe stato Weber arrivare terzo dietro Alonso con Vettel primo se stavano le cose senza la safety car. Carlo Vanzini, il direttore faceva così immaginare che ci sia, possa essere qualcosa dietro questo strapotere della Red Bull, questi alettoni che sono sotto accusa, che peraltro più o meno li ha anche la Ferrari, oppure c'è qualche altra cosa secondo te? Ma sicuramente si parla degli alettoni, se ne parla tanto come fatto di attualità, però non solo gli alettoni, è tutta una macchina, uno studio sempre estremo che fa Adrian Newey delle sue macchine, quindi siamo di fronte a un monoposto sicuramente al limite del regolamento, si è andato a lavorare in tutte le pieghe di questo regolamento. Io credo, come diceva il direttore, che la Red Bull sì, continua a essere la macchina da battere, la scuderia da battere, però la Ferrari ha dimostrato nell'ultimo Gran Premio in Germania, con temperature forse più basse, di poter essere a livello, anzi è stata nettamente davanti alla Red Bull. Oggi stranamente la Red Bull è tornata a essere così forte, perché dopo solo una settimana su un circuito che tutto sommato, visto quello che è successo settimana scorsa, doveva essere allora ancora favorevole alla Ferrari, beh, questo strapotere sinceramente io non me l'aspettavo. Per quanto riguarda la gestione dei piloti, sarebbe da porsi il quesito: la Red Bull in questo momento è al comando del campionato col pilota giusto? Cioè vogliono vincere il campionato con Webber, perché da quello che so io loro vogliono vincere con Sebastian Vettel per motivi di marketing, per tante situazioni, perché il più giovane, il più forte, si parla che è il futuro Schumacher. Quindi è una situazione adesso da gestire, perché i Gran Premi diminuiscono e bisogna iniziare a riflettere, cosa che farà la McLaren forse oggi. I due piloti entrambi, insomma, gara da dimenticare, però anche la McLaren dovrà pensare che cosa fare, se puntare direttamente su Lewis Hamilton e lasciare stare, tralasciare un po' Jenson Button, però è arrivato il momento di decidere e Spa sarà forse il crocevia del mondiale. Direttore, un Webber che potrebbe vincere il mondiale nonostante il suo team, è mai successo nel mondo della Formula 1 una situazione del genere, cioè che si punti su un cavallo ma invece vinca il compagno di squadra? Ma sì, è successo, certo che il campionato è lungo e Webber ci ha abituati a fare una gara sì e una gara no, questo è il problema di Webber. Però è quello che ha vinto più di tutti, ha vinto quattro gare, quindi è in testa meritatamente, però la sua storia e anche in tempi recenti, quando sta andando molto forte, ne inanella una, delle volte anche due, poi dopo ne fa una che sbaglia tutto. C'è da dire che stiamo di fronte a un problema generale, che sono questi circuiti con queste automobili, attenzione, con altre automobili andrebbero bene anche questi circuiti, che ci condizionano moltissimo nel ragionamento. Uno che guardava la televisione oggi e vedeva i primi 8-9 giri diceva: Vettel è un fenomeno e Webber si è già ridimensionato e dietro ad Alonso non prova niente. È successa una cosa strana, questo non ha cambiato le gomme, è volato via e Vettel era dietro ad Alonso e non ha combinato niente. Dare giudizi onesti è veramente molto difficile in queste condizioni. Carlo Vanzini, il mondiale a questo punto si ferma per un paio di settimane. I prossimi appuntamenti: Spa-Francorchamps 29 di agosto, Monza 12 settembre. Sono due piste totalmente diverse rispetto ad Hockenheim e all'Hungaroring, piste molto più veloci. Secondo te ci sarà ancora il duello Red Bull-Ferrari, oppure per la McLaren, complice anche queste due settimane di lavoro, anzi tre settimane di lavoro, può esserci margine per un recupero? Ma guarda, io credo che ci sia margine a qualsiasi situazione. La Formula 1 è diventata talmente sofisticata che basta una soluzione che viene portata in pista, che non è, non risponde, non corrisponde a quelli che sono i dati magari delle simulazioni, ed ecco che cambia totalmente il risultato che ci si attende. Va detto anche che è vero, mancano 3 settimane al prossimo Gran Premio, ma per regolamento le factory, le aziende devono chiudere almeno 2 settimane. Quindi, se vogliamo, ci sono 5 giorni di lavoro, poi si andrà direttamente a Spa e quel che è fatto è fatto. L'anno scorso abbiamo avuto una Ferrari straordinaria a Spa, è vero, la macchina è cambiata, l'anno scorso non andava avanti la Ferrari. Se prendono spunto da quella macchina che non andava avanti e da che soluzione ha trovato a Spa per farla andare così forte, credo che la Ferrari possa lottare per la vittoria. Credo che in questo momento l'alleato più forte della Ferrari sia Sebastian Vettel, perché Vettel sotto pressione qualche stupidata la combina sempre. L'abbiamo visto quando ha dovuto provare dei sorpassi in passato con Kubica, con Webber, quando teoricamente doveva avere un sorpasso agevolato da un ordine di scuderia. Insomma, quando è sotto pressione come oggi, secondo me lui non ha gradito il fatto di essere richiamato a cambiare le gomme e il compagno di squadra no, quindi a posteriori lui ha pensato una strategia a favore di Webber. Non è così, ha fatto una stupidata lui, l'ha fatta l'ingegnere che non l'ha avvisato della distanza dalla macchina che lo precedeva, quindi credo che in questo momento l'alleato a Ferrari sia questo Vettel o anche Webber, come sì, giustamente diceva direttore, a corrente alternata. Poi la Ferrari deve cercare di non sbagliare più. Oggi Alonso è stato fantastico in partenza rispetto ad altre volte, quando ha lasciato lì dei punti proprio al via. È un mondiale, almeno fino adesso, che si sta disputando più sugli errori commessi che non la bravura vera e propria dei piloti. Resta il fatto che è un bel mondiale. Sport e motori. Nel curriculum di Michael Schumacher ce ne sono tanti di passaggi, una lunga storia sulle piste, ovviamente tanti episodi tra virgolette incriminati. Quello di questo pomeriggio, il duello con Barrichello, davvero ai limiti, ma non tanto del regolamento quanto proprio, come dire, della sanità mentale, quasi, utilizzo un termine molto forte, davvero non l'avevamo quasi mai visto, vero direttore? Quello stringere Barrichello sul muretto per difendere un 10º posto a me ha fatto molta tristezza, non so a te. Io trovo il personaggio chiaramente frustrato, però la mossa che ha fatto Schumacher non è diversa da tantissime altre che ha fatto. Oggi se ne accorgono tutti, perché nella stampa, diciamo la stampa nazionale, c'è una credine assoluta verso Schumacher, perché possono fargli pagare tutto quello che in passato hanno mandato giù senza poter dire niente, e questa è la cosa che mi dà più fastidio. Schumacher queste cose le ha sempre fatte, le ha fatte con Häkkinen a Macao, le ha fatte con Damon Hill, le ha fatte con Villeneuve, o le ha tentate nella fattispecie con Villeneuve, le ha fatte. Schumacher è un pilota durissimo, è sempre stato molto oltre il regolamento, che oggi però ci si ne accorga con tanto livore e tanto stupore, quando lo si è difeso ad oltranza per anni, questo a me mette molta tristezza, un po' come vedere Schumacher indietro. La tua opinione, Carlo Vanzini? Ma io sono perfettamente d'accordo, è vero, negli anni Schumacher ce l'ha fatta sudare, nel senso che riuscire ad avere un'intervista o comunque avere una disponibilità è sempre stato difficilissimo, ed è vero che nei suoi confronti, quando da parte nostra insomma non c'è la massima possibilità a lavorare, la massima qualità nel lavoro, da parte nostra poi si dice ah sì, prima o poi ripasserai. Io sono assolutamente d'accordo che Schumacher queste manovre le ha sempre fatte, è un campione così, l'abbiamo visto l'anno scorso con Lewis Hamilton, quando con una macchina inguidabile lottava per la 15ª, 16ª posizione con cattiveria estrema. Io credo che un pilota così, che sia una prima posizione, che sia l'ultima posizione, pur di difenderla, è pronto a tutto, e nel suo DNA queste manovre ci sono. Per di più nei confronti di un Rubens Barrichello, con il quale ormai i rapporti sono veramente al limite. Oltre la frutta siamo, qui siamo al digestivo. No, siamo quasi alle mani. Alle mani, bravo. E quindi sì, ci sta tutto, ha fatto bene Barrichello a chiedere la bandiera nera nei confronti di Michael Schumacher, forse ci stava anche perché oggigiorno una manovra così, considerando le penalizzazioni a volte banali che vengono date ai piloti, allora una manovra così, bisogna mettere Schumacher in carcere, buttare via la chiave. Io sono più per una Formula 1 un po' più calda, la stile Schumacher se vogliamo, un po' meno rispetto a questa azione di Schumacher, però... insomma, in questa Formula 1 forse non c'è più spazio per Schumacher. Non è tanto per la manovra di oggi nel confronto di Barrichello, è più che altro per il confronto che sta diventando davvero imbarazzante con Rosberg. Per questo Schumacher sicuramente. Carlo Vanzini, resta con noi perché con te apriamo tra pochissimo anche la pagina dedicata alla MotoGP che abbiamo un po' trascurato nel corso degli ultimi appuntamenti. Prima di salutare Carlo Cavicchi, un'ultima domanda. Non abbiamo quasi mai parlato di Massa nella nostra chiacchierata di questo pomeriggio. La sua gara, insomma, come dire, un po' a luci ed ombre, anonima perché si è visto poco, in ogni caso un quarto posto che, come si suol dire, dà morale. È il secondo pilota e a questo punto, nonostante le dichiarazioni, lo resterà fino alla fine del mondiale, no direttore? Secondo me Massa ha dato quello che in questo momento è in grado di dare, cioè una grande prestazione che è inferiore a quella del suo compagno di squadra. Direi che la Ferrari ormai per tutti è chiaro che ha la squadra più sbilanciata nel confronto dei tre top team davanti, McLaren, Red Bull e Ferrari. Quella che ha piloti è un po' più sbilanciata in questo momento è la Ferrari, i due della Red Bull abbiamo detto che si può decidere, e su quelli della McLaren, dove c'è quel fantastico animale che è Hamilton e quella stupenda volpe che è Button, e beh, quella è una squadra molto difficile fare giochi, perché Button gliela dà sempre vinta come modo di fare, non si ribella mai, accetta tutto, in realtà però è sempre lì, e quando andrà via il caldo, lui è un pilota da freddo anche perché è molto alto e lungo, quando troverà il freddo, la pioggia, le condizioni difficili, sarà un gatto da pelare. Trovo che la Ferrari è quella che ha piloti è più sbilanciata. Questo debole per i due piloti della McLaren di Carlo Cavicchi ce lo porteremo avanti per il resto della stagione. Direttore, un'ultima battuta, quattro ruote in edicola il primo, no, con la tua firma, il mese di agosto è già a disposizione, qual è la chicca che vuoi segnalare per i nostri ascoltatori? No, il primo a mia firma sarà quello di settembre, che esce a fine agosto. Questa è stata in condivisione firma di Mauro Tedeschini, certo. Di chi che ne aveva tante, perché Mauro ci ha lasciato alla grande con della roba molto bella, per cui il nostro confronto tra le macchine che fanno da 0 a 100 sotto i 4 secondi è tutta una serie di inchieste, di robe interessanti. Sarà importante che sia buono anche il prossimo. Ecco. Ci vuoi anticipare qualcosina o non te la senti ancora? Ma no, abbiamo tante prove interessanti, tra cui la 500 due cilindri che tutti aspettano al varco per vedere come va. Avremo un'inchiesta pepata di cui però non posso dire prima che esca, certo, perché chiaro. Dobbiamo tenerci questo colpetto qui, e insomma sarà un numero interessante, anche se la rivoluzione verrà dal numero di ottobre più avanti. Vabbè, ti devi godere anche un pochino le ferie, no? Bene. Grazie a Carlo Cavicchi, direttore di Quattro Ruote. Carlo, arrivederci. Appuntamento a domenica prossima con il direttore di Quattro Ruote. Siamo rimasti insieme, Carlo, caro Carlo Vanzini. Volevo salutare Stefano, sempre molto puntuale via SMS, che ricordava in effetti il sorpasso, anzi la manovra della scorsa settimana di Vettel su Alonso proprio in partenza. Dice: non mi sembra che la manovra di Schumacher di oggi sia tanto diversa da quella. In effetti, insomma, molto molto simile. Carlo Vanzini, voltiamo pagina, come si dice, passiamo a parlare di MotoGP. Domenica scorsa la vittoria di Jorge Lorenzo a Laguna Seca di fatto ha chiuso i conti per il mondiale, sono 72 punti di vantaggio adesso del pilota spagnolo della Yamaha su Pedrosa, il terzo posto di Valentino Rossi. Insomma, che MotoGP è andata anche come dire, momentaneamente in vacanza, che quadro ci puoi fare? Ma una MotoGP che ha ritrovato il suo eroe, che è Valentino Rossi, e non è ancora a pieno regime. Laguna Seca rappresentava la gara più difficile, secondo me, per Valentino Rossi, perché un conto è il primo rientro, non ti aspetti niente, vedi come va, va bene lo stesso perché è tornato. Invece è tornato talmente forte che poi a Laguna Seca ti aspettavi il botto. E invece per lui è stata la gara più difficile, perché doveva pensare stare a un risultato importante, si è reso conto che comunque che Lorenzo ha un altro passo, e quindi è diventata un po' una gara, un calvario. Poi è stato favorito dall'uscita di Pedrosa, dalle scivolate, quindi si è ritrovato con un podio che, se vogliamo, è un po' un passaggio di consegna quel podio, perché Lorenzo va verso il mondiale, Stoner secondo e gli darà la moto, e quindi insomma c'è stato un podio che ci dà un po' il quadro del futuro della MotoGP. Adesso andiamo verso gare dove secondo me Valentino Rossi cercherà di vincere, tanto Lorenzo il suo mondiale l'ha vinto, non avrà ordini di scuderia da parte della Yamaha, ma credo che comunque non l'avrà più rispettati, e quindi ci divertiremo, e credo che la chiave sarà un po' vedere quanto ci metterà Lorenzo a chiudere questo mondiale e quanto Valentino Rossi gli darà fastidio. Ti aspetti fra 15 giorni a Brno il fatidico annuncio, detto anche il segreto di Pulcinella, nel senso che lo sanno tutti ormai che Valentino andrà in Ducati. Sì, 16 agosto, sembrerebbe fissata per il giorno dopo del Gran Premio, la data dell'annuncio, annuncio che un po' tutti i tifosi italiani aspettano, perché anche negli anni di dominio di Valentino Rossi, comunque quando ci sono stati i grandi duelli con Stoner, una parte di tifosi criticava a volte anche l'amico Guido Meda per essere un po' troppo di parte nei confronti di Valentino rispetto alla Ducati, ricordando che la Ducati è italiana. Quindi adesso Guido Meda potrà scatenarsi, perché Valentino Rossi finalmente guiderà una moto italiana, e uno più uno in genere fa sempre due, qua dovrebbe fare mondiale, diciamo così. Allora Carlo Vanzini, io ti ringrazio, ci ritroviamo anche con te la prossima domenica per un nuovo appuntamento con Sport e Motori. Buona settimana e a presto, ciao Carlo. Grazie, ciao Max. Volevo ringraziare anche Luca da Como, purtroppo non riusciamo a raccogliere la sua telefonata all'800 24 00 24, così come tantissimi che ci hanno scritto via SMS. Dovremmo chiedere magari di allungare il nostro appuntamento per accontentare magari i nostri ascoltatori in maniera maggiore. Ringrazio per il loro splendido lavoro Paolo Colleoni in regia e Margherita Aina in redazione. Vi lascio al Valentino Rossi di Radio 24, Federico Taddia con le sue mine vaganti, ma prima l'appuntamento con l'informazione delle 17. Da Massimo Di Scienza l'augurio di un'ottima domenica. Ciao, alla prossima. Sport e Motori.